RadioTube Social Network. Eccoci insieme per la seconda ora di RadioTube dopo il giornale radio. Stavo parlando di Vincenzo Miglietta, che sempre questi suoi giornali radio così belli, così precisi, così professionali. Sono una grande fan di Vincenzo, chissà se ci sta ascoltando dalla redazione di Roma. Oggi sono qua da sola io a Milano e lui qua da solo a Roma, ci vediamo solo a distanza. La seconda ora di RadioTube è quella dedicata all'attualità della rete e dalla rete. Vi ricordo il numero per i vostri SMS e WhatsApp: 349-238-6666, ma soprattutto i nostri account, i miei account di Twitter e di Instagram, chiocciola Marta Cagnola. Vi ho retweetato le cose di cui parlavamo prima, no? La storia del video dei due destini, dei tiro mancino, cose a volte sono un po' lunghe da spiegare a parole, quindi così la mettiamo sui social e via. Ma adesso c'è la seconda ora, c'è l'attualità della rete e dalla rete, abbiamo un sacco di temi da approfondire, anche questa non si parlerà ancora di musica, come vi anticipavo. E abbiamo un co-conduttore d'eccezione, sono contenta che sia tornato, anche se a distanza, perché purtroppo non possiamo vederci ancora fisicamente per le arcinote misure di sicurezza eccetera eccetera eccetera, ma è come se fosse il professor Andrea Fontana. Bentornato professore! Ciao Marta, eccoci. Buon pomeriggio, grazie, che bello sentirti. Chiocciola Story Factor, sempre per andarti a cercare su Twitter. Come sono contenta, quanto hai lavorato, tu che ti occupi di comunicazione, di analisi, di come la comunicazione in rete, ma non solo, racconta, ma dà anche forma alla realtà, quanto ti è toccato lavorare nei mesi della pandemia? Perché come abbiamo comunicato è stato molto importante. Beh sì, per fortuna o per sfortuna mi è toccato lavorare tantissimo, e anche perché sta succedendo di tutto per chi fa il nostro mestiere, per chi si occupa in senso lato di comunicazione, di marketing, di professioni giornalistiche. Pur nella tragedia del momento, dall'altra parte è un momento straordinario, no? Perché sta cambiando tutto, e quindi stiamo assistendo a un cambio di paradigma che da certi temi, da certe questioni politiche, sociali, si sta andando verso altre, quindi c'è stato molto da analizzare, come dicevi tu. Sì, c'è stato molto da analizzare, anche molte fasi diverse, no? Mi è sembrato che i nostri stati d'animo si siano susseguiti uno dopo l'altro, vabbè, però poi ti chiederò qualcosa di più nel dettaglio, perché siamo cambiati molto, ma ci sono delle cose che sono sempre uguali a loro stesse. Sai perché ti dico questa cosa? Perché è il momento di sentire un po' i video della settimana, e io inizierei con questo. Sentire da un collega che la magistratura tutta è mafiosa a me fa inorridire. Non era tutta. Grazie onorevole Bartolozzi. No, allora, anche per queste parole invettive che l'onorevole Sgarbi rivolge, non è... La richiamo all'ordine, onorevole Sgarbi, ed è la prima volta. Onorevole Sgarbi, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Le chiedo di allontanarsi dall'aula, perché lei non può insultare i suoi colleghi. Le chiedo di allontanarsi dall'aula, grazie. Le immagini di Vittorio Sgarbi portato via dall'aula sono state tra le più viste e tra le più condivise questa settimana. Direi che qui siamo ancora però su una delle antiche solide certezze, Andrea. Qui, ma direi di sì, qui diciamo, siamo ancora qui... su una politica più vecchio stampo, nel suo grottesco. Anche se vuoi di una comunicazione, no? In questo caso nulla di nuovo sotto il sole, manifestare polarizzazione, critica spinta, come nel caso a cui ci ha abituato Sgarbi, non, come dire, non, è abbastanza usuale, ecco, per un certo tipo di comunicazione o di comunicatori, se vuoi. Diciamo che anche un po' sullo stesso stile di quello che lui ha mantenuto nella cara vecchia tradizionale televisione per decenni, uno stile che un po' ha iniziato lui in televisione e che, beh, diciamo, premio coerenza, se non altro. Ma da questo punto di vista sì, ma infatti non mi sento neanche di criticare questo approccio, perché se vuoi ha fondato la comunicazione televisiva, in parte anche giornalistica, degli ultimi 25-30 anni, no? E quindi lui sicuramente è coerente con quello che lui stesso ha contribuito a creare. Lato mio spero in cambiamenti degli approcci, come sai, alla comunicazione, ma... come dire, il mondo è bello perché è vario, no? Sono d'accordo, anch'io gradisco altri approcci, mi è piaciuto molto come si è comportata Mara Carfagna, con un piglio che mi è piaciuto molto, quindi insomma, diciamo che tanto è cambiato. Questo invece, che è uno dei video più condivisi della settimana, secondo me ci fa capire che non è cambiato proprio tutto. Allora, altro personaggio molto discusso questa settimana è stato, ma non vi dico neanche il nome perché appena sentirete l'inizio del video saprete di cosa stiamo parlando. Eccolo qua. Ho pensato alla mia donna delle pulizie, sì. Che si chiama Emilia. Ah, beh, non poteva essere diversamente. Non è vero, non si chiama Emilia. Lei mi ha detto ti amo. No, lei è moldava e io ho preteso in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Perché io voglio chiamare mia figlia Emilia. Ho capito, chiamaci tua figlia, però non... No, anche non... Ci avrà un nome sta donna? No, non adesso, so qual è il nome. Fallo per me, ti prego, puoi rispondere a Emilia, ok. Ognuno dovrebbe chiamare le persone. No, hai ragione, sono fatti tuoi, giusto. Cioè, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Cioè... Sì, ma sono pagate però. Vabbè. Sono pagate e possono quindi far chiamare il loro nome. Spero coi contributi. Allora, video estremamente dibattuto, perché da Alessandro Cattelan c'era Cesare Cremonini, ha fatto queste battute sulla signora che fa le pulizie a casa sua. La posso chiamare Emilia, le ho cambiato il nome, apriti cielo, è successo di tutto. Io stessa non ho gradito molto. Poi però cosa è successo? È successo che su Instagram Cesare Cremonini ha postato quest'altro video, eccolo qua. Ci mancava solo la polemica sui social. Guarda che cattiveria. Ma io sono stata fiera. Io ho detto guarda te che io segno qualcosa per questa persona. Anche adesso dobbiamo ballare insieme, aspetta, vieni qua. A tvoi ben, a io ti voglio bene domani, ma ti volevo mandare un messaggio per ringraziarti. Non vi preoccupate, noi ci amiamo. Qual è il tuo vero nome? Emilia. Si chiama Emilia. Emilia Rumena, non Emilia Romagna. Emilia Rumena. Tu sei l'Emilia Rumena. A parte che non ho capito se romena o se moldava, però vabbè. È stato un cortocircuito assurdo quello di questa settimana, perché Cesare Cremonini, da amatissimo, in un momento è diventato bersaglio di qualsiasi critica. Poi lui ha spiazzato tutti con questo video dicendo... ma io in realtà poi voglio molto bene a questa signora, della quale però non so il nome vero. È stato tutto piuttosto imbarazzante, secondo me. Cosa ne dici, Andrea? Ma guarda, penso che sia proprio il segno dei tempi che stiamo attraversando, dove ci vuole un'attenzione quasi ossessiva a quello che si racconta, no? Che il racconto sia testuale, visivo, che sia una foto, una dichiarazione, te la dice lunga, insomma, dell'attenzione che devi dare e devi avere. Anche perché immediatamente quello che tu dirai, farai, anche noi in questo momento forse, no? Polarizzerà i tuoi pubblici, qualcuno ti amerà, qualcuno ti odierà, qualcuno ti darà ragione, qualcuno ti darà contro. In questo caso sicuramente Cremonini ha fatto un'affermazione abbastanza forte, no? Su cui alcuni pubblici si schierano pro e altri assolutamente contro. È stato secondo me interessante vedere come poi lui ha reagito, creando quasi una sua contronarrazione, no? Esatto, se vuoi. Cioè, esatto, esatto. È come se lui, sdrammatizzando con quel video, cavalcasse la contronarrazione che era nata a seguito forse anche di uno scivolone che aveva commesso. Anche secondo me un po' uno scivolone, perché effettivamente era una sciocchezza. Scivolone suo e scivolone anche di Alessandro Cattelan, che non gli ha detto: ma Cesare, ma ti pare una roba, cioè è una frase assurda dire è una mia dipendente quindi le cambio il nome. Era veramente una scemenza. E poi lui l'ha ribaltata di nuovo con questo video. Vabbè, alla fine niente di gravissimo, insomma, una scemenza, e alla fine però, un po' imbarazzante. Però se vuoi ci dà, come dire, ci dà il segnale di come alcuni temi oggi, e lo sapevamo già, no, negli ultimi mesi, anni, ma oggi più che mai alcuni temi siano di grandissima attenzione sociale, no? Quello dell'inclusione, della diversità, delle etnie diverse, e quindi come alcune questioni sociali o politiche devono essere maneggiate con grande cura. Grandissima cura, vero. Il politico in Parlamento o il cantante in una trasmissione televisiva durante un'intervista, grande attenzione, ecco. Allora, tra poco vorrei tornare sul tema viabilità e poi ancora insieme, perché non voglio lasciare andare questo aspetto della cautela, dell'attenzione ogni volta che si parla. RadioTube Social Network. Eccoci ancora insieme con RadioTube Social Network e con il nostro co-conduttore, che come vedete è sempre estremamente preciso quando si parla di comunicazione. Dopotutto è, tra le altre cose, professore di corporate storytelling alla Università di Pavia. Professor Fontana, la cautela nell'esprimersi sarà un segno dei prossimi tempi futuri della comunicazione? Mi spiego. A volte bisogna censurarsi, stare attenti a quello che si dice, perché qualcuno potrebbe pensare che qualcuno potrebbe. Allora, per evitare di offendere qualsiasi, oppure di apparire in qualche modo, uno sta zitto, si censura oppure fa una fatica pazzesca a esprimersi. Sarà un po' il segno della comunicazione del futuro, faticosissima? Secondo me assolutamente sì, e non solo secondo me, insomma. Oltre che la cautela aggiungerei la prudenza, che tra l'altro abbiamo visto anche nella comunicazione di marca aziendale degli ultimi due mesi, soprattutto durante la pandemia, no? Dove improvvisamente le marche, le istituzioni hanno incominciato a inserire nella loro narrazione il tema della prudenza, dello stare attenti, dell'avere un certo tipo di comportamento vocato all'attenzione in senso lato. Ecco, questo credo che sia uno dei tanti grandissimi passaggi che stiamo vivendo, e quindi anche nell'uso delle parole, nell'uso che un personaggio pubblico o un'azienda o un'istituzione fanno delle immagini, per esempio sui loro social network piuttosto che sui loro canali istituzionali, diventerà necessariamente un fattore chiave distintivo. Pensiamo solo a cosa sta succedendo nel mondo, poi, tra l'altro, no? Ma non rischiamo di essere a volte un po' troppo? Allora, faccio l'esempio del sindaco Sala, che la scorsa settimana, dopo essere stato per un sacco di tempo un'icona per gran parte di un certo tipo di personalità della rete, per un solo discorso, che secondo me era anche piuttosto legittimo, è diventato il nemico pubblico. Anzi, facciamo un passo indietro. È stato ospite questa settimana proprio da Michela Giraud a Comedy Central News. Sentiamone un pezzettino del sindaco di Milano. Balli di gruppo. Oh, e perché lei, no? Lei giustamente è molto un figo anche su Instagram, dove pubblica le sue playlist, i Ruzzi, Radiohead, Miles Davis. Però, sindaco, non si vive solo di Miles Davis, ci dica la verità. Lei ce l'ha un fichi fichi di Gianni Druidi, una canzone qualche neomelodica napoletana, ci dica. Però lei è piccola, Giraud, non se la può ricordare. No, io sono giovane. Non si può soprattutto ricordare il mito, il grandissimo Nicola di Bari. Certo che me lo ricordo. E la canzone Paese è stellare. E quella c'è cioè nella mia playlist, giuro. Ma ce ne può cantare un pezzetto? Paese dove sei nato, eccetera, eccetera. Vabbè, va, ho avuto quello che... Non potrei chiedere di meglio. Allora, ecco, non continui a fare il sindaco, ma non il cantante. Anche qui, posizionarsi in un certo modo nel mondo dell'informazione, essere friendly, essere autoironico. Però... basta un'intervista in cui c'è una frase che peraltro poi forse non voleva dire esattamente quello per essere demoliti in rete, ma basta davvero così poco? Bisogna stare davvero così attenti a tutto, professore? Eh beh, oggi sì, inevitabilmente. Diciamo, io farei una distinzione rispetto a quello che stiamo dicendo. Ci sono dei temi intoccabili e quindi se tu decidi di toccarli devi sapere quello a cui vai incontro. Questi temi intoccabili però non sono eterni, sono, come dire, ondivaghi, dipendono dal momento sociale, dalla sensibilità sociale, no? del periodo storico che stai vivendo. Allora, in questi ultimi 12 mesi, se io ti dico per esempio virale, come dire, non ha più la valenza di 2 anni fa questa, certo, parola. E certo. se io incomincio a giocare con questa parola e a buttarla nei miei discorsi a caso, adesso uso un termine che possiamo capire tutti, no? Probabilmente faccio dei pasticci, certo, ecco, quindi devo stare, certo, molto attento. Tra l'altro un ascoltatore ci ha scritto al 349-238-6666: state facendo l'elogio sperticato del politically correct, fastidioso, pedante ma assolutamente minoritario nel paese. Viva Sgarbi, viva Cremonini, abbasso la Murgia, per esempio. No, non stiamo elogiando un certo tipo di comunicazione, stiamo analizzando quello che sta succedendo. Io personalmente non sono una fan del politically correct, però è un dato di fatto che le aziende, la rete, un certo tipo di comunicazione sarà sempre più presente nel futuro. Stiamo facendo un'analisi. Ah, sono d'accordissimo, infatti ribadiamolo, nemmeno io sono un fan del politicamente corretto, anzi, il problema è che mai come oggi, semplicemente stiamo sottolineando il fatto che mai come oggi l'uso delle parole e delle immagini è quanto mai importante, ecco, e ci sono alcuni che possono permettersi di adoperarlo in modo più, come dire, leggero, no? E altri, istituzioni, brand, che invece devono usarle con molta cautela. Pensiamo a un amministratore delegato che fa il discorso che ha fatto magari Cremonini qualche giorno fa. Sarebbe devastante, come, no, per lui e per la sua azienda, certo, probabilmente. Certo, certo. Quindi, e poi ricordo anche ai nostri così, ascoltatori in questo momento, è che tutto va contestualizzato. Noi in Italia stiamo vivendo un certo tipo di momento, ma noi siamo inseriti all'interno di contesti molto più ampi, e chi ha funzioni per esempio di comunicazione internazionale, no? E torno per esempio alle aziende o a certi tipi di istituzione, sa benissimo che oggi non puoi più dire black people per esempio in America, e per dire persona di colore bisogna trovare tutta una serie di sinonimi che diventano a volte imbarazzanti nell'uso pubblico di questi sinonimi. Ed è a volte difficile far capire che potrebbe essere uno di quelli che gli americani definiscono honest mistake. Cioè, io posso sbagliare un'espressione in maniera assolutamente involontaria, onesta, senza avere un retropensiero razzista, sessista, quello che è, ma è un rischio fortissimo, perché nel caso di un'azienda, nel caso di un amministratore, di un personaggio pubblico, questa cosa potrebbe avere una conseguenza devastante. È così, e diciamo anche un'altra cosa a proposito del politicamente corretto. Non solo non stiamo facendo l'elogio, direi, ma stiamo cercando di mettere in luce come sono i pubblici oggi a essere estremamente sensibili a tutti i livelli. È come se avessero davvero la pelle scoperta, no? E quindi se tu metti il dito su un certo tipo di pelle, corri il rischio di ferire troppo. E quindi l'attenzione non è tanto al politicamente corretto, l'attenzione è ai temi sociali di rilevanza, e quindi tu, se hai cariche pubbliche o istituzionali, ne devi per forza tener conto. Anzi, ti dirò di più, ci sono aziende che mappano costantemente in progress, in tempo reale, questi temi per capire nei loro post online, piuttosto che nelle loro dichiarazioni pubbliche, qual è o quali sono le parole chiave di oggi piuttosto che quelle di domani. È una forma di attenzione e ascolto, non di elogio del politicamente corretto. Quanto è facile essere demoliti e quanto è più difficile poi ritrovare credibilità? Ma Cremonini ci ha dato un bel insegnamento, credo. Diciamo che ormai certi personaggi hanno un loro posizionamento, un loro branding, come si dice, no? E quindi hanno tutto un loro seguito di follower e di amatori, lasciami usare questo brutto termine, e contemporaneamente anche di odiatori. Certo. Okay? Quindi diciamo che lo scivolone grave lo fai se davvero tocchi temi, come dicevamo prima, gravi nel dibattito sociale e li tocchi male, ok? Cremonini secondo me ha fatto uno scivolone, ma poi si è, come dire, risollevato bene facendo questo cortocircuito, come l'hai definito tu. Questa tecnica del cortocircuito a volte però è rischiosa, perché diciamo così, poteva, una volta che usciva in secondo momento con il video, no, e scherzando con questa sua persona di fiducia, vedi come anch'io sto cercando di trovare le parole giuste. Certo, perché ormai è ma infatti è molto difficile, perché certo. Appunto stiamo parlando di un però arriva il messaggio, state facendo l'elogio. Ragazzi, è come andare sul surf, io però surf non sono capace, con le parole imparo un po' più in fretta. Il video che ha fatto Cremonini poteva essere un ulteriore boomerang. Certo, quindi diciamo, certo. È andata bene, no? Ci ha provato, sapeva che poteva avere un risvolto positivo ed è andata verso quella direzione, ma poteva essere il boomerang definitivo. Beh, ti faccio un esempio. Io un giorno si parlava appunto di collaboratori, familiari, persone, eccetera. Io ho scritto su un social che io faccio le pulizie da sola a casa. E sono stata criticata perché mi è stato detto: ah, tu non dai la possibilità a qualcun altro di lavorare facendoti. Ma che è assurdo! Io mi diverto a fare le pulizie a casa. C'è Valeria che in regia che scuote la testa sconsolata. Diciamo che Conte, anche questa settimana, il Premier ha detto: ne usciremo migliori. Al momento, secondo me, siamo solo tutti un po' più confusi. Perché è diventato complicatissimo. Cioè, tu fai una frase e non sai quali saranno te tiri fuori una frase e non sai quali saranno le reazioni. Però saremo più, cioè, riusciremo a essere un po' più sereni nel comunicare? Secondo me no. Anche perché adesso faccio io il politicamente scorretto. Secondo me no, perché se lo colleghiamo a quello che sta avvenendo nel mondo e soprattutto al fatto che tu prima mi chiedevi come stiamo noi oggi, no? In senso lato, tutti noi abbiamo vissuto delle profondissime emozioni di paura e poi di rabbia, no? E quindi nei prossimi mesi, come dire, questa paura e questa rabbia inevitabilmente saranno proiettate anche nel campo della comunicazione pubblica, sta già avvenendo e continuerà. Poi questa cosa prenderà le forme più strane, come quelle che stiamo analizzando, no? Da Cremonini che magari fa una battuta e viene mal interpretato, a noi che parliamo per analizzare dei fatti e ci dicono fate l'elogio del politicamente corretto. Meno male che si sono limitati a dirci solo questo, ecco. Ah, ma perché non ti ho letto gli altri messaggi? Ah, ok. Professore, breve pausa e poi saremo ancora insieme. Come stai tu a musica come argomento? Sei un appassionato? Non te l'ho mai chiesto? Sì, però diciamo che io sono molto appassionato di jazz e di funky, quindi Non siamo tanto nell'argomento, però ci divertiamo tra poco. Allora, una breve pausa e poi saremo ancora insieme. Radio Tube Social Network. O meglio, sì, è una canzone vera, ma in realtà è una finta canzone ispirata al mondo eurovisivo. È uscito ieri su Netflix, è stato pubblicato, questo film attesissimo ispirato all'Eurovisione, al concorso Eurovision della canzone. Eurovision, la storia dei Fire Saga. Un film divertentissimo, totalmente surreale, perché è un'idea di Will Ferrell, lui è il protagonista, quindi potete immaginarvi la comicità assolutamente scema di questo film, ma io mi sono divertita moltissimo. Intanto risaluto il nostro co-conduttore di oggi, il professor Andrea Fontana. Eccoci, professore. Ciao. Allora, ciao. Eccoci. Tu hai mai seguito Eurovision? Poco. L'ho seguito, devo dire, poco. Allora, ti spiego perché ne parliamo. Perché sai che è uno spettacolo che c'è da decenni. Pensa che la prima volta che l'Italia l'ha vinto è stato nel 64. È nato veramente tanti anni fa l'Eurovision, un po' ispirato al Festival di Sanremo. L'Italia non ha partecipato per molti anni, ma poi è tornato l'Eurovision ed è diventato un fenomeno in rete. E anche questo boost che gli ha dato la rete ha fatto sì che sia diventato un fenomeno talmente mondiale al di là dell'Europa, che è stato fatto un film per Netflix che pare che sia già molto visto sulla piattaforma, uno dei più visti sulla piattaforma. Oggi c'erano anche delle critiche entusiaste di Variety, quindi fuori da ogni aspettativa. Veramente un fenomeno pazzesco. Allora, ovviamente quando parliamo di Eurovision, ma già l'abbiamo annunciato, abbiamo per forza Eddie Anselmi. Ciao Eddie. Ciao Marta e salve Andrea Fontana, il co-conduttore del pomeriggio. Era da tanti anni, era la prima volta che sono andato sul posto all'Eurovision nel 2007 e IBU stava già trattando con importanti produttori italiani per la licenza di un film su Eurovision. La cosa ha avuto alti e bassi, di tira e molla, la cosa non si è fatta per anni e poi finalmente Netflix ha messo la freccia e passato davanti a questa idea di Will Ferrell. Sono riusciti a produrre l'attesissimo, addirittura si parlava di Hugh Grant, si parlava di produttori di Notting Hill, quindi era probabilmente una commedia di tutt'altro stampo. Sì, sarebbe stata magari più romantica, più invece qua sì c'è del romanticismo, ma è proprio la roba da ridere alla Will Ferrell. C'è del romanticismo, c'è della surrealtà, qualche fan eurovisivo ha storto il naso, è un film parodistico, è un film che mette in cattiva luce, è un film che, però Eurovision è anche così, è anche sa di non potersi prendere esclusivamente sul serio, quindi ci sono cose serissime, ma c'è anche, appunto, anche da parte della stessa degli stessi licenziatari del concorso la volontà di scherzare su se stessi. Ma meno, ma viva Dio, non prendiamoci sempre sul serio, ecco. Allora, giusto. No, io ho pensato, si potrebbe fare un festival, un film del genere su un importante concorso canoro italiano. Uno a caso? Uh-huh. Ci sono stati, l'ultima pellicola, credo che ricordi, era ispirato ovviamente al famoso concorso canoro italiano e aveva come scrittore il gruppo del Bagaglino, Castellacci e Pingitore. Urca. Mi sembra vero, di ricordare. Vero, adesso sì, me lo ricordo anch'io, sì. esatto, si parla di, insomma, in quel momento di passaggio tra prima e seconda repubblica, dove un po' valeva tutto, si scherzava, era un predagospia in realtà, perché voleva fustigare i costumi senza averne però il mordente. Cioè, l'Italia ha una sua cultura, l'America ne ha un'altra, e si permette di guardare appunto il concorso con questi toni surreali, ma surreali anche come guarda il concorso come evento folcloristico europeo. Cioè i protagonisti sono islandesi, l'antagonista è russo, però anche proprio le famiglie islandesi riunite nel 74 davanti al focolare domestico per guardare gli ABBA, nasce tutto da lì. Sto raccontando la scena iniziale perché dopo sarebbe tutto uno spoiler. Quindi... sì, sì, sì, sì. Allora facciamo una cosa, Valeria, facci sentire un pezzettino del medley, che è un po' il momento culminante dell'inizio di questo film, perché ci sono un sacco di star eurovisive in questo medley del film sull'Eurovision di Netflix. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one. No. Sono moltissime star dell'Eurovision degli ultimi anni, o non si parla mai dell'Italia, però Eddie, non c'è neanche una citazione dell'Italia, io sono rimasta malissimo. Siamo arrivati dopo, siamo fuori dall'immaginario eurovisivo consolidati negli anni 2000, perché negli anni 2000 non c'eravamo. Certo. Va detto però che insomma è un po' come parlare del mondiale di calcio non parlando della Germania degli ultimi, perché insomma noi negli ultimi 10 anni siamo il secondo paese in numero di punti, però è il secondo paese per numero di piazzamenti, solo la Svezia c'era avanti. Perché? Probabilmente perché paghiamo ancora questa assenza, e poi anche perché c'è un po' un grandissimo derby tra noi e l'ala nordica. Cioè, sì, è bella l'Italia, ci stimano, ci vogliono, diamo lustro, però un po' ci tollerano, perché dopo aver snobbato il concorso per 15 anni siamo tornati direttamente. Gli abbiamo guastato le feste. Eddie, però mi piacerebbe, così appunto coinvolgiamo anche il professor Fontana, quanto ha pesato la rete, quanto hanno pesato i social network nel successo ritrovato di Eurovision anche nel nostro paese? Viabilità, e poi ti faccio rispondere tra pochissimo. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme, sempre con il professor Andrea Fontana, sempre con Eddie Anselmi. Stiamo parlando del film che Netflix ha pubblicato ieri in tutto il mondo, questo film dedicato a Eurovision, un film comico, un film un po' parodistico. I fan di Eurovision si prendono sempre un po' troppo sul serio, ma siamo sempre sullo stesso argomento, non usciamo da questo problema. Eddie, quanto hanno contato i social network nella fama dell'Eurovision anche nel nostro paese? Ritrovata fama? Allora, in assoluto, prima che l'Italia tornasse, tantissimo, perché prima dei social network in generale, proprio la strategia di appoggiarsi alla rete fu un nuovo approccio degli organizzatori del concorso, questo all'inizio degli anni 2000, quando appunto la presenza in rete permise al concorso di vivere 365 giorni all'anno e non solo nell'imminenza del concorso. Quindi immediatamente dopo, parlo di 3 anni dopo, prima c'erano i blog con commento e lo stesso il sito di Eurovision ufficiale, commenti proprio per favorire l'interazione e creare una comunità. L'esplosione, siamo nel 2008, insomma più o meno, l'esplosione dei social network, che, per di cui il mondo eurovisivo fu un precursore. Io ricordo che già nel 2008 si utilizzavano Facebook, Twitter, in maniera molto più avanzata di come facessimo in Italia, l'app ha portato proprio il brand a consolidarsi e a consolidarsi presso un target che era allora privilegiato, cioè era un target di trendsetters. Adesso il social network è qualcosa che usano tutti, chi lo usava nel 2008 era comunque un po' più avanti, quindi aveva anche pubblicitariamente era un target più interessante. La stessa cosa è successa in Italia, da quando siamo tornati con risultati di ascolto sotto la media, oppure nella media di Rai 2, che erano medie basse, però si vedevano dei dati su Twitter e sui vari social che dicevano che Eurovision era seguitissimo da un pubblico pubblicitariamente interessantissimo, cioè età, mezza età, 35-50 anni, con una propensione di spesa altissima, con un'educazione a un gran livello di istruzione più elevato. Quindi da un punto di vista dell'inserzionista, questo è un pubblico che assomiglia più al pubblico delle televisioni satellitari, per esempio, che delle televisioni generaliste. Quando poi dopo i numeri furono, anche i numeri di ascolto furono sufficienti per portarlo su Rai 1, questo trend si è consolidato e si vede tuttora che, al di là del blocco duro del pubblico di Rai 1, perché insomma ci sono le famiglie, le persone anziane, sono quelli che non si staccano dalla rete ammiraglia del servizio pubblico, però Eurovision ha un pubblico speciale che è quello del Festival di Sanremo, ma lievemente più motivato e più simile proprio a quello delle televisioni satellitari, per dirvi che comunque, anche se avevano ascolti minori, avevano un profilo talmente elevato da risultare egualmente appetibile agli inserzionisti. Professor Fontana, Marta, interessante Marta, questo, sì. No, ma infatti ti volevo dire, ma anche a Elli, mi sembra interessante il fatto che ci sia in tutta questa vicenda, soprattutto una volta che entri in campo Netflix o attori come Ferrell, la omnicanalità di tutta questa dimensione, per cui i film, le fiction, la musica, i diversi canali, cioè Netflix, la TV normale, i social network, è tutto, no? Sono i diversi media in cui noi oggi siamo immersi che si parlano. E questo, anche questo mi sembra un superamento della vecchia logica, no? Che finora era un po' di conflitto, per cui il giornale non deve parlare, la carta stampata non deve parlare con i social network, la TV non deve parlare con le TV streaming e via dicendo. E invece la cosa interessante è che oggi c'è una omnicanalità da saper utilizzare per far avvenire poi anche prodotti di successo come questo, che nell'arco di 24 ore sono già un cult, no? Pazzesco. Più multicanali siamo, più siamo vincenti, professore? Questa è una delle tendenze oggi, sì. Il problema è che devi capire che ogni canale che tu scegli parla a una comunità, a un pubblico, e quindi devi orchestrare molto bene sia il tuo racconto sia i canali che scegli, oltre al fatto che naturalmente queste attività costano, hanno dei costi non solo economici, e quindi devi gestire molto bene le risorse che hai. Quindi spalmi, investimento spalmato, investimento, è un po' come seminare su più terreni. Bene. Eddie, devo farti però una domanda che abbiamo in sospeso da un'ora. Che non c'entra con Eurovision, ma c'entra con Sanremo. Io ho fatto un po' di ricerche. Quante volte il vincitore di Sanremo ha vinto anche il premio della critica? Diverse. Allora il primo vincitore di Sanremo a vincere il premio della critica è stata Giorgia. 1995. Bravo. Andando in avanti, credo che sia seguita da Elisa. Certo. Andando avanti dal 2001 si passa, adesso non vorrei dirti direttamente al 2010. No, c'è un 2007. Ne salto uno. 2007, bravo. 2007, sì, giustamente, nel 2007, nel 2010 con il professor Vecchioni, scusami, nel 2011, nel 2010 vinse Valerio Scanu, no, non poteva essere possibile. E poi dopo, perché non è che mi cogli impreparato, è che devo proprio caricare un altro programma. Certo, nel certo. In diretta. Esatto. È l'ultimo? Dai, no, l'ultimo è facile. È l'ultimo. È facile. L'ultimo non è da sì, non è, aspetta, l'ultimo è stato. L'ultimo. Diodato. Bravo, bravo Eddie, vedi, lo no, sapevo. Stavo ragionando perché mi confondevo, perché allora Mahmood non ha vinto il premio della critica, no. Ma avrebbe vinto se il festival si fosse svolto due giorni dopo. Certo, è vero. Gabbani non ha vinto il premio della critica, ma aveva vinto tutti i premi possibili l'anno prima tra i giovani. Certo. Quell'anno era quindi c'è stato un pochino di... Gli Stadio non hanno vinto il premio della critica, ma sono arrivati secondi, perché quell'anno vinse Patti Pravo, erano i terzi, quell'anno vinse Patti Pravo. Cioè, comunque ci furono alcuni che lo sfiorarono, ma non lo vinsero. Cioè, non è che vinceva uno snobbato dalla critica, vinceva uno... Il Volo stesso arrivò terzo al premio della critica, non è che arrivò ultimo. Non lo freghiamo, non lo riusciamo a fregare di Anselmi, ce la può... ci arriva sempre, lui fa i conti e poi anche in diretta te lo dice. Eddie, ti ringrazio tantissimo, ti chiedo solo se hai riso col film su Eurovision. Io ho riso tantissimo. Ho sorriso, mi sono commosso, e in particolare quando sono tutti i cantanti che ballano, sono scene che ho visto davvero, insomma non proprio così, però insomma io sono stato a feste dove ballavi con uno, c'era il cantante che sì, sono cose che vero. Un po' visto anche il femminile delle mie vacanze. È vero. E io voglio quel vestito che ha Rachel McAdams, che è bellissimo. Grazie Eddie Anselmi. Ciao Eddie, a presto. Ciao. Allora, professore, prima di salutarti, perché siamo in chiusura, voglio farti sentire un pezzettino del disco della settimana. Già rido. Andiamo con questa musica. Vai Valeria. Mai stato un uomo assist? No, Bobo sa fare solo gol. Cartellino giallo, bollettino rosso, in casa, fuori casa, tanto cambia poco. Eppure la tua amica è la fine del mondo, se porti pure lei in trasferta vale doppio. Dietro di me che fila c'è? Ma sai com'è? Questa è la vita da bomber. La vita da bomber. C'è Valeria che mi guarda con gli occhi. È il pezzo secondo me più tamarro dell'estate. Bobo Vieri, Nicola Ventola, che lo sapevamo che voleva fare il cantante, l'abbiamo avuto ospite qualche settimana fa. E poi c'è anche Lelia Dani. E beh ragazzi, è il pezzo più tamarro dell'estate. Cioè proprio, guarda, siamo proprio a livelli stratosferici. Marta, voglio una vita da bomber anch'io, quindi mi piace moltissimo questo pezzo qua. Sì, ti vedo. Perché c'è un animo tamarro dentro di me, in fondo, e quindi faccio outing anch'io. Per fantastico. Cui... Ascoltiamola col finestrino giù e il gomito fuori mentre andiamo in macchina. Grazie al professor Andrea Fontana per essere stato con noi. A presto, speriamo dal vivo, speriamo di poterci rivedere in studio. Grazie Andrea, ciao, a presto. Grazie a voi, a presto, ciao Marta, ciao a tutti. Qui siamo tutti molto bomber dentro. Devo ringraziare tutti i miei bomber che hanno lavorato per questo RadioTube. Alessandro Schirano da casa, ciao Ale, bentornato, grazie. Edo Lavezzari, quanto sei bomber pure di questa canzone, proprio da 1 a 10, 12. Valeria Bernardi, che non riesce a resistere a non ballare con questa vita da bomber. Io vi saluto, vi do appuntamento a domattina per Radio TV l'intervista. Invece in rete trovate il podcast Ancora Una Poi Smetto, dedicato alle serie TV. Per il nostro Radio TV di questa settimana è tutto, al prossimo sabato.